Va bene, incominciamo. La giornata di oggi è stata costruita a partire da un lavoro molto originale fatto dal Centro Studi Canaia, Mobile Ribelle, che trovate anche sul banchetto. Si presenta come un long playing, il formato è quello del 33 giri, all'interno non c'è un disco, ci sono invece una serie di schede raccolte in un fascicolo sulle barricate. L'avremmo dovuto presentare già tempo dietro, poi c'è stato un rinvio, poi un altro, e quindi arriviamo ad oggi. Oltre al lavoro del Centro Studi Canaia, ci sarà una parte cantata di Tiziana, una breve introduzione storica. Questa non è una giornata storica, è una giornata di suggestioni, di flash sentimentali, immaginifici sulle barricate, nella storia. E poi si mangerà insieme e dopo cena ci sarà un omaggio a Paolo Ciarchi con un video sui suoi saggi di micromusicologia applicata e un concerto di Alessio Lega e della sua recente formazione. E ci saranno quindi, quanti sono? 9, 8, 9? 6. No, ma secondo me saranno di più. Comunque, flash, sì, di 7 minuti ciascuno, giusto? Il cronometrista ufficiale sarà inflessibile e speriamo di starci dentro, perché appunto le situazioni che vogliamo evocare sono tante e gioco forza, si tratta di dire proprio le cose essenziali. Bene, incomincio io con una brevissima introduzione. Chiaramente non si può fare in 7 minuti la storia delle barricate, che è una storia grosso modo lunga 300 anni. Si possono porre alcuni elementi salienti che unificano i vari passaggi storici e chiudere sul logico una serie di ancora suggestioni e domande. Ecco, in apertura di questa introduzione si può usare un passaggio delle memorie di Chateaubriand, laddove dice: le barricate sono una forzatura che appartiene allo spirito parigino. Si trovano in tutti i nostri disordini, da Carlo V ai giorni nostri. Chateaubriand, il padre del romanticismo francese, partecipe poi oppositore della Rivoluzione francese e poi impegnato ancora nei passaggi successivi, centra con queste parole un tratto forte della vicenda barricadiera, e cioè la sua collocazione storico-politico-geografica in Parigi. Questo non significa che le barricate si siano date solo a Parigi, ma Parigi di fatto è stata la capitale storica delle barricate. Fouret, nel suo libro dedicato all'Ottocento, intitolato Il secolo delle rivoluzioni, avrebbe potuto usare anche un altro titolo e chiamarlo Il secolo delle barricate, e non sarebbe andato lontano dal vero. E, come ho detto, appunto, sono 300 anni estremamente densi. Una prima apparizione delle barricate a Parigi è al termine delle guerre di religione, e l'ultima occasione forte e densa di significati è quella dell'ultima settimana della Comune di Parigi. Allora, il termine compare negli anni 70 del Cinquecento, la prima barricata, la prima esperienza di barricate forti, avviene un 15 anni dopo, nel 1588, il 12 maggio, alla notizia che Enrico III sta facendo affluire delle truppe in Parigi, Parigi che aveva sempre avuto una forte tradizione di autonomia e aveva sempre rifiutato di ospitare eserciti stanziali, insorge e nel giro di poche ore le barricate prima sono 200 e poi arrivano a un migliaio in un'area di un chilometro circa di diametro. E in questa densità si manifesta già il primo carattere forte del fare barricate, cioè il fatto che la barricata non è solo uno strumento di difesa per coprire una ritirata, ma nel suo intrico è uno strumento offensivo, perché la barricata che riesce a stringere le truppe nemiche, a impedir loro il movimento fino a isolarle e sgominarle. Questo è il carattere precipuo della barricata nella Parigi storica, la cui struttura è ancora quella medievale, un fitto intrico di vie, una prossimità delle case che fanno parte esse stesse della barricata. Cioè, per barricata non bisogna intendere solo l'ostruzione della via attraverso carri ribaltati e poi soprattutto barili riempiti di sassi e terra, da cui il nome stesso della costruzione, ma anche le case intorno, da cui i soldati nemici sono bersagliati in continuazione con quello che c'è nelle case. E questo è il secondo carattere forte della barricata. La barricata è un'autocostruzione operata dal popolo usando le cose della vita quotidiana. I mobili innanzitutto, da qui il nome della giornata, che poi lo spiegheranno meglio loro, nacque come risposta al salone e al controsalone a favore di un uso effettivamente creativo dei mobili, ma tutto il resto, tutto quello che si trova in casa, nelle adiacenze, nei luoghi di lavoro, viene ricordato che nelle giornate del 30 pioveva di tutto, a un certo punto piove anche un pianoforte dai piani alti. Quella del 1588 è storicamente la prima, una seconda sarà nell'agosto del 1648, durante i sommovimenti cosiddetti della Fronda. Termine che in realtà significa fionda o frombola, cioè quel tipo di fionda non a tensione ma a rotazione, in cui un sasso viene racchiuso in un contenitore, rilasciando uno dei due capi, questo schizza a una velocità pazzesca. Sono quelle che usano i palestinesi negli affrontamenti di strada con l'esercito israeliano, e che qualche anno fa hanno imparato a usare anche i compagni italiani, in precedenza non si era capace. Forse il nome deriva dal fatto che le finestre di Mazzarino furono bersagliate da sassate, però non è chiaro. Fatto sta che la cosa da rilevare in questa seconda barricata, che è ancora interna a uno scontro tra le élite come era stata la precedenza, ma in cui si manifesta già una forte dinamica autonoma, quello che conta è la memoria storica del popolo. Cioè nel 1648 ci si ricorda delle barricate fatte 70 anni prima e le si ripropone. Ecco, questo è un carattere che poi ritroveremo in tutti i passaggi barricadieri successivi. La rivoluzione francese invece non è caratterizzata particolarmente dalle barricate. Le uniche esperienze barricadiere nella Parigi rivoluzionaria avvengono in un passaggio difficile della rivoluzione, cioè dopo il Termidoro, quando i sansculotti cercano di resistere al corso moderato che sta prendendo la rivoluzione, e quindi nell'insurrezione del primo aprile anno terzo, cioè il 20 maggio 1795, innalzano velocemente, perché un altro carattere delle barricate sempre è l'estrema velocità con cui vengono costruite, al punto che gli osservatori, i cronisti sono stupefatti di questa capacità di cambiare il volto della città in così breve tempo. Ecco, le barricate del primo aprile anno terzo sono brevi, i sansculotti vengono velocemente disarmati, c'è però la soddisfazione di averle date secche, di averne date veramente tante, alla gioventù dorata, a quelli che erano chiamati i moscardini, cioè quella gioventù di estrazione borghese, alto borghese e nobiliare, che non solo avevano voluto segnare la differenza rispetto al rigore e anche nei costumi dell'epoca rivoluzionaria, ma che avevano formato delle vere e proprie bande armate, avevano attaccato varie sedi sansculotte, avevano preteso che la salma di Marat venisse seppellita altrove, se la prendevano con i sansculotti, e quindi quel giorno pensarono di attaccare direttamente la barricata prima che fosse pronto l'esercito, e quindi ne presero una caterva e furono salvati a stento dalle forze armate regolari mandate dalla Convenzione. Quindi quelle barricate sono un po' il canto del cigno dell'ala proletaria della Rivoluzione francese, l'ultimo atto prima che cali quel lungo silenzio che durerà fino all'inizio degli anni 30, però ai giovani nobili gliene andate veramente tante quel giorno. E da lì appunto si arriva alle gloriose giornate della Rivoluzione del 30 con un anticipo di 3 anni, un'altra esplosione repentina, e le barricate del 30 sono, insieme a quelle del 48, quelle più famose e più efficaci sia sul piano politico che sul piano militare. Sono quelle immortalate dal famoso dipinto di Delacroix, La libertà guida il popolo, che mostra la libertà, donna prosperosa col berretto frigio, a seno nudo con la bandiera, che guida una composizione variegata, proletari, studenti, bambini, sottoproletari, quella che era effettivamente la composizione del popolo in rivolta in quei giorni. L'azione insurrezionale di strada ebbe successo, ma poi il risultato politico fu estremamente deludente, tanto che 2 anni dopo ci fu una seconda giornata di barricate proprio degli scontenti, di quelli che non volevano accettare che da quella rivoluzione fosse venuta fuori una nuova forma monarchica costituzionale, ma altrettanto lontana dalle volontà del popolo. Nel novembre del 31 a Lione abbiamo la prima barricata schiettamente proletaria. Nei moti dei lavoratori della seta, i Canù, che riescono a conquistare sia i quartieri in cui erano stati accasermati. All'inizio vivevano nel centro di Lione, poi erano stati accasermati in un comune ai tempi limitrofo, il comune in italiano sarebbe della Croce Rossa, e riescono a prendersi entrambi, cioè prima la zona delle abitazioni e poi il centro della città, ancora una volta producendo un intrico inespugnabile di ridotti, di punti di difesa e di attacco, fino a che l'esercito non ci capisce più niente, e in varie situazioni si realizzano momenti di fraternizzazione. E questo è un altro tratto importante dell'esperienza barricadiera. La barricata non è soltanto uno strumento per combattere nelle strade, è anche una tribuna da cui arringare le forze avversarie e cercare di portarle dalla propria parte, al punto che nel 48, nelle giornate del giugno 48, quindi diciamo la seconda tornata rivoluzionaria, una delle preoccupazioni principali del Partito dell'Ordine era giusto la fraternizzazione possibile tra la Guardia Nazionale e gli insorti, tanto che fu creato un nuovo corpo, le guardie mobili, che almeno sulla carta sarebbero state risparmiate da questo rischio di contagio rivoluzionario, quindi giovani contadini fatti arrivare dalle campagne totalmente estranei alla vita di città, anche se nonostante questo le preoccupazioni erano forti. Ecco, le giornate del giugno 48, quindi la risposta proletaria della Parigi Rossa all'emarginazione politica, alla chiusura dei laboratori, degli atelier nazionali, è preparata da entrambe le parti da una serie di passaggi, sia sul piano militare che sul piano legislativo. E per prepararsi alle previste barricate del giugno 48, che lo Stato francese contemporaneo vara le prime legislazioni antisovversive, antiterrorismo, diciamo potremmo dire oggi. E dall'altra parte le settimane precedenti sono dedicate a costruire armi, arriveranno a costruire un cannone artigianale, oltre che al momento dell'insurrezione a impossessarsi delle armi contenute nelle armerie. Il bilancio, lo sapete, sarà molto, molto pesante, ma a dire della durezza degli scontri basti ricordare che nei combattimenti furono uccisi 5 generali dell'esercito ufficiale, quindi insomma se le davano di santa ragione, e gli insorti sapevano combattere, anche se Blanqui poi nella sua istruzione per una presa delle armi criticherà molti aspetti pratici dell'agire barricadiero, però la cosa fu forte. E un altro tratto caratteristico del fare barricate è che, anche in assenza di una direzione, di un comando unificato, di una direzione politica chiara, è il movimento stesso delle barricate che comunica al suo interno e con la città, una specie di direzione collettiva informale. È facendo le barricate, avanzando, arretrando, che si determina la tattica e i modi del combattimento. Ecco, sulle giornate del giugno 48 non c'è, ahimè, molta letteratura critica, perché quelle giornate furono segnate da un passaggio di pentimento bello, bello forte. Furono molti gli ex compagni e sostenitori delle giornate della primavera dei popoli, che poi dopo le giornate del giugno si tirarono indietro, sconfessarono, tanto che il primo libro dedicato alle barricate del giugno 48 è del 1880, però in compenso i poeti, tra cui Baudelaire, hanno bene colto la questione. Ci sono alcune righe del progetto di epilogo di Baudelaire ai Fiori del Male che voglio leggervi, perché meritano. Baudelaire scrive: «I tuoi magici ciottoli eretti in fortezze, i tuoi piccoli oratori con barocchi giri di parole, a predicare amore e poi le tue fogne piene di sangue. Perché il massacro fu durissimo, avvenne oltre che nella pubblica via, nelle strade, nelle chiese dove i rivoltosi si erano rifugiati, nelle caserme di polizia, nel palazzo del Lussemburgo e poi i cadaveri furono gettati nelle fogne o nella Senna. Ecco, Baudelaire non era un rivoluzionario, ma guardava le cose in faccia e quindi ricorda le fogne di Parigi piene di sangue. Ecco, dopo la sconfitta del giugno 48, il colpo di stato di Napoleone il Piccolo, regna un'apparente calma che si romperà solo a seguito del disastro militare nella guerra franco-prussiana e quindi inizieranno le giornate della Comune. Sul piano della rappresentazione dell'immagine, le barricate a quel punto non più costruite con mobili, con materiali di riporto, ma con vere e proprie montagne di sanpietrini, calcestruzzi, eccetera, non ebbero in realtà un ruolo importante se non nell'ultima fase della Comune, quando la Comune era stretta d'assedio e cercò di difendersi. Ma nell'immaginario è forse proprio l'icona della Comune di Parigi. Non se ne può fare la storia, ovviamente, ci sono però delle situazioni che sul piano evocativo vale la pena di ricordare. Forse la più toccante è quella sull'ultima barricata difesa. C'è sempre stata una grossa diversità nella narrazione, diverse barricate hanno rivendicato di essere state l'ultima. Questo non è importante adesso, vi voglio solo leggere i passi di Louise Michel che descrive quella che secondo lei fu l'ultima barricata della Comune di Parigi, quella di Rue de la Fontaine-Aura. Un'immensa bandiera rossa sventolava sopra la barricata. C'erano i due Ferré, Théophile e Hippolyte. Anche Jean-Baptiste Clément, Cambon, Garibaldino, Verlaine, Vermorel, Champy. La barricata di Rue Saint-Maur aveva appena ceduto. Quella di La Fontaine-au-Roi sputava ostinatamente fuoco in faccia alla sanguinosa Versailles. Nel momento in cui furono sparati gli ultimi colpi, una giovane donna giunse dalla barricata di Rue Saint-Maur per offrire i suoi servizi. Cercarono di allontanarla da questo luogo di morte, ma lei rifiutò di andarsene. Ecco, questa è la donna a cui poi Clément dedicherà la canzone della Comune, Il tempo delle ciliegie. Ecco, con la Comune di Parigi si chiude la lunga stagione di efficacia politico-militare effettiva della barricata. Ce ne saranno molte altre successivamente, un po' tutti i passaggi rivoluzionari vedranno l'erezione di barricate, dall'insurrezione spartachista di Berlino alle giornate del luglio 36 in Spagna, ma alla sua valenza pratico-politica si aggiunsero varie valenze e risonanze. Ad esempio, secondo diversi critici, osservatori, analisti, le barricate del maggio francese sono innanzitutto la manifestazione di voler fare come si faceva una volta. Non hanno hanno sì una funzione pratica di filtrare, arrestare gli attacchi degli sbirri, ma hanno soprattutto un valore evocativo. Ecco, sul perché le barricate hanno smesso, le barricate per come sono state conosciute soprattutto nell'Ottocento, hanno smesso di essere efficaci, magari ci torniamo sopra dopo. Si tratta di questioni che hanno a che fare con la ristrutturazione della città, i modi diversi di vivere la città, le modificazioni sul piano delle tecniche militari e degli armamenti degli eserciti. Questo non significa che le barricate siano finite, c'è una ridislocazione delle pratiche che sarà oggetto di uno degli interventi successivi. Non sono stato nei 7 minuti, ma spero di non essere andato molto al di là. Vado. Vai. Ciao a tutti. L'accordo con Roberto, con Claudio, con gli altri compagni con cui abbiamo pensato questa giornata era quella che il nostro intervento sarebbe servito ad abbassare il livello. Dopo questo, e per riuscirci siamo venuti in due, per cui cercheremo di adempiere al nostro compito. Una breve presentazione sul perché questo nostro lavoro, sul perché si chiama dispensa e sul perché la sua confezione è fatta come un LP, come la copertina di un LP. Il ragionamento è molto semplice. Per realizzare il nostro lavoro, per cercare di ricostruire la storia di 6 barricate che hanno caratterizzato la storia di Milano dal 1848 al 2010, abbiamo dovuto documentarci tanto, a parte gli scherzi. Abbiamo cercato giornali d'epoca, qualcosa in rete, ma soprattutto materiale cartaceo abbiamo consultato. Andando avanti nel lavoro ci rendevamo conto che potevamo riempire di parole, di ragionamenti, di tutto, di immagini il nostro lavoro, ma avremmo fatto un torto ad ogni barricata. Non saremmo stati in grado di riprodurre i rumori, i suoni di quella barricata. Gli strumenti per farlo non ce li avevamo, non ce li abbiamo e non ce li avremo, per cui era l'idea perlomeno di restituire la forma del vecchio LP al nostro lavoro. Un po' questo è il senso. La genesi di questa dispensa. Nel 2011 dei compagni di Magenta ci chiedono di pensare qualcosa che potesse fare da controstoria a quello che stava maturando rispetto ai 150 anni dall'Unità d'Italia. Noi ci ragioniamo, ci confrontiamo e pensiamo che sarebbe stato bello ricostruire quei 150 anni attraverso le barricate che hanno caratterizzato la storia italiana. Facciamo questo lavoro, con i compagni di Magenta non si fa un bel niente e ce l'abbiamo lì fermo. Nel 2015, in occasione di Expo, Nutrire il pianeta era il titolo di quell'evento, pensiamo di entrare a gamba tesa, no, in questo evento e raccontare la storia di un cibo che di per sé ha una storia meravigliosa, ma davvero una storia senza esagerare rivoluzionaria, che è la storia della pianta della patata, che accompagna la storia dell'uomo attraverso 1000 passaggi, 1000 eventi che accompagnano proprio questa storia. Facciamo la nostra prima dispensa, concepita in questo modo. Da una parte la storia della pianta della patata, rovesciando la dispensa, la storia del suo nemico storico, la dorifora, questo insetto che si nutre delle sue foglie. Abbiamo comunque quel materiale che avevamo raccolto sulle barricate e pensiamo di imbottire in qualche modo questo lavoro con questa storia che parte anche lì dal 48 e arriva fino alla Valsusa, per cui raccontare in questo modo. E rimane lì anche questo fermo. Facendo questo lavoro scopriamo questo mural messicano dedicato, lo spagnolo non lo so, per cui perdonatemi come lo pronuncerò, dedicato alla Virgen de las Barricadas, per cui una Madonna con la maschera antigas contornata anziché da ceri da bottiglie incendiarie. Partendo da questa immagine elaboriamo questo concetto, elaboriamo è un'esagerazione, però dedichiamo quel lavoro ai beati costruttori di barricate. Cosa che ritorna anche in questo nostro lavoro. Allora, il lavoro rimane lì. arriva quello che per noi è il primo, per come lo abbiamo conosciuto noi, salone del mobile, ma soprattutto il fuori salone, cioè produttori di mobili portano in piazza divani, materiale d'arredamento, queste cose qui, e allora ci incazziamo veramente. E dice, porca puttana, questi portano i mobili e ci rubano anche l'utilizzo dei mobili in piazza che ha caratterizzato la nostra storia, la storia della nostra classe, la storia delle rivolte, delle barricate appunto in questa città. Riprendiamo il lavoro che avevamo fatto, lo rielaboriamo e estrapoliamo da quel lavoro solo le barricate milanesi. Ecco, un po' il senso del nostro lavoro è questo. L'ultima sottolineatura che vorrei fare prima di lasciare la parola a Gigi è proprio quello del perché dispensa. Dispensa è un termine bellissimo, no? Che ha molti significati. È il mobile in cui si raccolgono gli alimenti che potranno servire in futuro, è un locale in alcune situazioni dove appunto raccogliere quel materiale, ma il verbo dispensare è quello che permette di evitare, o meglio, di essere esonerati, per cui dispensati dall'utilizzare certe forme o da essere sottoposti a certe dinamiche. Quello che abbiamo voluto fare è autodispensarci dall'essere degli storici. Cioè raccontiamo fatti storici, ma le raccontiamo a modo nostro, evidenziando quello che per noi è più significativo di quelle storie che abbiamo voluto raccontare e trasformarle poi in questi scritti. Per farvi capire meglio, aspettate un attimo, se no non sente Gigi, già ci sente poco. Faccio prima andare lì. Vai lì. Però tanto lo posso dire lo stesso. Per farvi capire, per cercare di far capire meglio qual è il senso del lavoro che noi abbiamo voluto fare, adesso con la prima storia della prima barricata, o prima, insomma, la prima storia che vi vogliamo raccontare, lascio la parola a Gigi. Non si offende. Allora, a me tocca entrare nella dispensa, tirarvi dentro in quella che è stata la nostra idea di fare un long playing, nel senso che potrebbero essere benissimo canzoncine, però giocate e rifate rispetto alla barricata. L'altra cosa che noi avevamo fatto, abbiamo dissossato, nel senso che abbiamo tolto gli ossi, per cui non c'è un nome o pochissimi nomi, c'è una collettività dei gruppi, ma non lo riportiamo i nomi. Poi c'è la rete, chi vuole o l'ha studiato già a casa, già comprende. Per cui sicuramente noi siamo partiti dal Salone del Mobile, adesso lui è educato, però ha rotto i coglioni veramente. E allora, siccome siamo partiti dal 1848, in cui fanno 1650 barricate, è la madre di tutte le barricate, e per cui potete immaginarvi il design milanese che hanno esposto. Per cui partendo da lì noi abbiamo cominciato. Per cui ogni barricata, ogni momento storico ha una visione diversa. Abbiamo cercato di sentire i rumori, abbiamo cercato, che non riuscivamo, non siamo riusciti, però il nostro intento è quello di sentire la fisicità, i rumori, il ritmo di quella barricata. 1848, 64 fumatore, 8 fumare sigari, 66 proibire di fumare, 1 numero ritardatario Italia, e questa è l'ultima estrazione. Partiamo proprio da gennaio, dove inizia lo sciopero del tabacco. C'è un ingegnere, fa dei calcoli e dice: oh, guardate che l'incasso rispetto al monopolio e alle tasse sono tantissime. Se noi facciamo uno sciopero del tabacco, riusciamo a diminuire, chiaramente con una sottolineatura patriota. Mettono fuori i manifesti e picchettano le tabaccherie. Questo succede, che ci sono delle risse già di confronto fra milanesi, poi una volta che comincia a ingranare funziona, ma i conti li fa anche il Feldmaresciallo. Lui cosa fa? Rimanda i militari fuori dalle tabaccherie, fa girare gli ungheresi con doppi sigari, la Digos uguale con doppi sigari, e manda i croati con queste cartucciere piene di sigari all'interno delle osterie. Allora, sugli ungheresi c'erano e ci saranno sempre dei contatti patrioti, perché anche l'Ungheria si sentiva dominata dagli austriaci, ma i croati? Io mi ricordo che mia nonna mi diceva «Das ist Purmen Kroat», che già dà l'idea, non so di che vonceria, e che poi erano proprio i rivali dei Barabba. Quando i croati passavano dalle loro vie erano sempre battoste e risse incredibili. Detto questo, però, non è una cosa che si scherza, perché poi militarmente c'è una reazione anche dell'esercito, ci sono 5-6 morti e 50 feriti, per cui un'esagerazione rispetto alla funzione dello sciopero del tabacco. La prima, perché poi il 48 è una, si può dire, è una barricata, 5 giornate in cui si sperimenta un po' diverse cose. La prima è, se pensiamo bene, il tentativo di prendere una città per fumo e non per fame, ed è la prima volta, quindi tentano di prendere la città per un vizio. Detto questo, poi evidentemente si continua con i rancori, non vanno alla Scala quando c'è la cantante austriaca. Però il gatto nero della storia attraversa venerdì 17 la strada al Feldmaresciallo. A Vienna c'è l'insurrezione e riescono a portare a casa belle cose. La notizia arriva il 18, che è la prima giornata delle 5, una delegazione è costretta, Casati, diciamo, il podestà, una delegazione è costretta ad andare al palazzo del governo per portare a casa, per richiedere le stesse cose. È chiaro che la delegazione non va da sola, va accompagnata. Ad accompagnarla partono due cortei. Allora, finché sia in tanti, anche la questura riesce a dare un numero, ma quando si è in troppi esagera, esonda, non c'è spazio per nessuna trattativa, già cominciano gli scontri. Lì è il ponte di San Damiano, inizia la prima barricata. Trovano, tanto per stare nel DNA delle barricate francesi, un carro e le botti e le buttano giù e cominciano. Ma c'è anche la chiesa di San Damiano, entrano e tirano fuori di tutto, confessionali, panche, sacrista compresa, e lo mettono sul ponte di, ed iniziano a suonare, che questa è una cosa importantissima. Iniziano a suonare con le campane, per cui danno l'avvio alle barricate attraverso le campane. Si calcola che ci siano una sessantina di campane, o più o meno, per cui c'è da svegliare le campane e c'è da svegliare i milanesi. Un conto semplice che fanno i milanesi è che hanno più armadi che armati, per cui cominciano a buttare giù, a formare le barricate. E chiaramente ci sono i morti, ci sono gli scontri. Si crea il Consiglio di Guerra. Il Consiglio di Guerra teorizza tre cose: campane, barricate e strade. Per quanto riguarda le campane, dice: tirate mattamente le campane. Aspetta, Giorno e notte, fate a turno, arma sonora e minaccia offesa, stringe il cuore al barbaro. Per cui c'è già la teorizzazione della campana, al che le campane, che poi ognuno ha la sua dimensione, i campanili più sono alti, le celle campanarie, le dimensioni della campana, le leghe bronze, per cui suonano in modo diverso, però suonano. E cominciano a suonare, e anche le barricate crescono, e anche i milanesi si muovono al ritmo delle campane, nel senso che non corrono, non sono lenti, si muovono proprio. E già questa è la seconda che noi pensiamo, è che la prima rivolta urbana, nel senso che le campane per 5 giorni continuano quella roba lì, a suonare giorno e notte, per cui è sempre il problema qual è? Che non hanno tutti lo stesso ritmo, perché ognuno ha la sua chiesa, per cui nelle contrade poverelle c'è questi campanili pochini e tirano su barricate da fare il falò di Sant'Antonio. Nelle campane, nelle quartieri in cui sono bei tosti, i campanili, il suono è grosso, e arrivano a fare barricate belle grosse. La seconda cosa è praticamente la barricata. E anche qua, seconda teorizzazione del Consiglio di Guerra, dice: barricate, non vi ricresca esporre in rovina le masserizie e mobili. Si tratta di salvare le vite dei vostri cari e l'indipendenza. Per cui cosa succede? Che praticamente è la famiglia che esce in strada e la mobilia segue la famiglia, per cui c'è in uno stesso quartiere rischia di esserci 6 o 7 barricate, c'è questa sorellanza di barricate, ed è una barricata a conduzione domestica, perché è la prima volta che ci sono tantissime donne, tantissimi bambini e ragazzi dietro alla barricata, per cui anche questa diventa una cosa. 1650, il Consiglio di Guerra è costretto a fare una commissione che va nel quartiere e controlla qual è la barricata capo, cioè della serie. Se sfondano c'è una barricata, e quella è quella centrale, è quella che deve reggere, il resto però è costretta. Quindi ogni quartiere c'è una barricata capo e le altre che sono di supporto. 1650 barricate, quindi abbiamo detto la grande madre di tutte le barricate, per cui abbiamo i quartieri che espongono mobilia povera, la borghesia che già un bel po' di scioreria la tira fuori, e i nobili con i servi con i guanti bianchi che portano fuori, per cui per quanto riguarda il salone del mobile siamo completi, quindi tutto il designer non è molto gradito agli stranieri, agli austriaci, però è una bella esposizione e non viene mai rivendicata da quelli che fanno il salone del mobile. Ecco, per cui c'è sempre questo dodon, dodon, io dovrei ripeterlo ogni 3 minuti, così entrate nel rave rivolta, perché dodon, dodon, dodon, dodon. Il problema è che rompe e fa dormire anche poco i milanesi, però i milanesi sognano la libertà, mentre gli austriaci sono costretti. Comunque, da queste 1650 barricate c'è la barricata di carta, che è praticamente fatta con le cataste dei fogli, i faldoni e i libri dell'ufficio del bollo. Immaginatevi questa barricata di carta, neanche i bambini l'avrebbero immaginata, eppure loro lo fanno. C'è la barricata teatrale, la scala tira fuori sedie, poltrone, le liga attorno, mette giù il tendone sopra. C'è le barre chiese, sono 2 o 3 chiese in cui i preti si danno anche da fare e vanno a fare le barricate. E c'è anche un collegio di seminaristi che tirano fuori tutti i letti, gli urinari e poi tutti i santini collegati sui cuscini. Ce ne sono le barricate edili, che sono quelle più toste, li mettono davanti al castello sforzesco, e nei punti strategici vengono incatenate e vengono fasciate con letame, fieno, paglia, perché sono quelli che beccano più palle di cannone, per cui devono attuire. E poi niente, per cui ripeterei dodon, dodon, dodon, dodon. No, dovete entrare, se non si entra non si capisce come può essere 5 giorni con questi che rompono giorno e notte, perché si danno anche i turni, primo turno, secondo turno, terzo turno, cambiano, alcune campane si rompono. E poi c'è la campana, poi c'è la barricata mobile, che è quella ultima, sono 2 metri per 3 di fascine bagnate legate tra di loro, che spinte, che sembra è una delle innovazioni anche questa milanese, rispetto a spingere, sparare e conquistare più spazi, per cui entra anche nel concetto non offensivo, non difensivo, ma anche offensivo. Poi il terzo punto sono le strade, e loro dicono, il Consiglio di Guerra, non risparmiate i marciapiedi, ottimo materiale per barricate, impedisce il passo, perché poi poi dicono, perché qui intervengono i spaccasassi e i pietraioli, che praticamente tirano su tutti i tombini, per cui anche la cavalleria non può intervenire, tutta la strada dissestata. E poi dicono di tenere il materiale in casa, per cui che va lanciato dalle finestre. Questo del materiale in casa non è male, perché tolgono e portano su vasi, sanpietrini, e le tengono sui piani superiori. Ma ancora più sopra di loro ci sono i tetti. I tetti sono sempre serviti per via di fuga, e soprattutto per giovanotti patrioti, ma traballanti. Allora tirano su i magut, che praticamente costruiscono i tetti, e i maestri tegolai, che praticamente scoperchiano i tetti e già da lì tirano giù portando sui tipografi, che sembrano siano eccezionali tiratori, altro che quelli del Tirolo che c'ha il Fedel Maresciallo, e praticamente li lanciano giù. Per cui un esercito, qual è il problema dell'esercito austriaco? Che gli hanno insegnato a fare la guerra esterna, una guerra urbana non l'hanno mai fatta, non l'hanno mai fatto in questo modo, perché sono costretti a non usare la cavalleria. Una volta bucata una barricata, se ne trova un'altra, tentano di andare rasente ai muri e lì gli viene giù l'ira di Dio, e per cui è un bel casino. Il Feldmaresciallo cosa ha fatto? Ha praticamente preso i contorni di Milano, quindi le mura e tutte le porte, e il Duomo, più qualche palazzo, che è costretto poi a farle rientrare al castello Sforzesco. Una volta che capisce che non è aria e che se ne deve andare, fa praticamente c'è la battaglia di Porta Volta. Lì perché fanno la battaglia di Porta Volta? Perché lui vuole uscire da Porta Romana e non vuole avere rogne su quel lato lì, per cui nell'ultimo giorno escono e se ne vanno via verso Lodi. Cosa rimane e chiudo dentro i 7 minuti? Rimane di Milano, che non viene mai detto, che praticamente abbiamo una popolazione stravolta, sorda, afona, perché è costretta a urlare con tutte quelle campane, con la casa in strada e la strada in casa, perché avevano fatto i buchi per far passare armi, feriti, morti, per cui senza i tetti praticamente barbogna. Questo è il finale, perché non lo dice nessun storico, ma lì quando se ne vanno, questi hanno un sonno della Madonna, tutto, sono stravolti di questa rivoluzione, insurrezione rave, e quindi chiudo qua. Chiuderei qua, però c'è un po' scritto. Siccome questa era la prima barricata che scrivavamo, noi abbiamo anche problemi con i tardi romantici e neomelodici milanesi, per cui abbiamo tentato di fare una chiusura molto cinematografica. Due paroline, eh? Praticamente c'è questi due morosi, lei e lui, abbracciati alla vita, che guardano le ultime torce dell'esercito che se ne va. Dietro hanno la barricata mobile e ai lati due palazzi in fuoco. A un certo punto lei guarda lui e vede che è rigato da lacrime e gli fa: ma Stefè, te piangi? Sono contento. tutti, mi sentite? Sì, io sono Tiziana, come musica lusca ho preparato un canzoniere delle barricate in cui ci sono dei canti spesso di cantastorie, alcuni altri che riguardano il canto popolare, il canto libertario. Ho preparato questo canzoniere che potete poi vedere sul sito quando verrà pubblicizzato questa iniziativa. Il primo canto che ho scelto è di Pietro Gori, grande libertario avvocato che scrisse una poesia che poi verrà musicata, dal titolo Amore ribelle, e fa riferimento proprio alle barricate. Si sente, sì. Benissimo. All'amore tuo, fanciulla, altro amore io preferia. È un'idea all'amante mia, a cui detti braccio e cor. Il mio cuore aborre sfida i potenti della terra, e il mio braccio muove guerra al codardo, all'oppressor. Perché amiamo l'eguaglianza, siamo chiamati malfattori, noi siamo lavoratori che padroni non vogliamo. Dei ribelli sventoliamo le bandiere insanguinate, innalziamo le barricate per la vera libertà. Se tu vuoi, fanciulla cara, noi lassù combatteremo, e nel dì che vinceremo, braccio e cor ti donerò. Se tu vuoi, fanciulla cara, noi lassù combatteremo, e nel dì che vinceremo, braccio e cor ti donerò, e nel dì che vinceremo, braccio e cor ti donerò. Vado. Allora, prima di entrare nel merito della seconda barricata che raccontiamo, una piccola correzione, o meglio un'aggiunta, che è doveroso fare, mi sono dimenticato di fare nell'introduzione. Abbiamo detto, lo conserviamo dentro qualcosa che assomiglia alla copertina di un LP. Chiediamo a un nostro compagno di ipotizzare quali musiche avrebbero potuto accompagnare le barricate che andremo a raccontare, e gli chiediamo di temporizzare, di quantificare il tempo di lettura, per cui come conclusione della nostra dispensa c'è la musica che secondo lui avrebbe potuto accompagnare la barricata che andiamo a raccontare, e il tempo di lettura. Detto questo, allora, Roberto nella sua introduzione ha utilizzato una definizione che gli storici spesso hanno dato del 48, la primavera dei popoli, che piaccia o meno, poi l'abbiamo vista riutilizzare in tante altre occasioni. Se finisce la primavera dei popoli, per le classi subalterne, con uno scarto netto di due stagioni, comincia un lungo inverno. 1853, Cinque anni dopo le barricate che hanno caratterizzato le cinque giornate, gli austriaci sono tornati a Milano. Sono tornati e insieme a loro naturalmente gli odiatissimi croati. Qualunque necessità repressiva viene lasciata loro in quella Milano. In quella Milano dove i nobili e borghesi che non si sono autoesiliati al ritorno degli austriaci hanno cominciato a intravedere possibilità di grossi affari. Inizia a trasformarsi il lavoro da prettamente artigianale e cominciano a sorgere le grosse fabbriche. Quello che si diceva prima, questo chiamiamolo in senso lato, questo fronte patriottico che aveva caratterizzato le cinque giornate, si è sfaldato, ma comunque rimane, anche se sotterranea, la volontà di liberarsi un'altra volta degli austriaci. I residui di questo fronte patriottico, e qui comincia questa storia, che è una storia fatta tutta di false promesse, di tradimenti, di accordi firmati dietro giuramenti e spergiuramenti che vengono prontamente traditi, prontamente dimenticati. Arriva il 1853, preceduto da una serie di accordi e di incontri fatti con i mazziniani in giro per l'Europa, che spingono per accelerare i tempi di una nuova insurrezione a Milano. Spingono, dovete accelerare, dovete fare in fretta, sbrigatevi, muovetevi. Sembra che possa arrivare questa occasione. Nel frattempo il fronte si organizza, cominciano a nascere insieme alle grandi fabbriche i primi embrioni di società di mutuo soccorso, ci si organizza per mestieri in qualche modo, e qui la grossa trasformazione tra il 48 e il 53. Non ci sono più i salotti borghesi o della nobiltà dove potersi incontrare e ci si incontra nelle osterie. Osterie che diventano davvero centrale operativa dell'ipotesi insurrezionale. Osterie anche queste frequentate e suddivise quasi per mestiere. C'è un'osteria dove ci vanno gli artigiani della calzatura, piuttosto che i panettieri, insomma varie tipologie di lavoratori e varie tipologie di osterie. In queste osterie, magari frequentemente con l'aiuto di buone dosi di buon o cattivo vino, si sogna questa insurrezione e l'insurrezione si tenta realmente, si cerca di trasformare questo sogno in qualcosa di concreto, di reale. Non ci sono più i nobili a cui appoggiarsi, non ci sono i borghesi sui quali fare affidamento, anzi, anche se, come diceva prima Gigi, in embrione c'è qualcosa che va al di là della necessità di liberarsi dagli austriaci, ma qualcosa di, o meglio, il sogno di liberarsi insieme degli austriaci, anche dei sciuri, anche dei ricchi, anche dei padroni, ipotizzare un mondo senza padroni, comincia a far breccia tra la coscienza delle classi subalterne. Per cui via i tedeschi e via anche i sciuri. Ci si organizza, ci cerca di fare del proprio meglio, si ha una memoria recentissima delle barricate appena cinque anni prima, un po' quello che diceva Roberto, insomma, no? c'è questo ricordo costante, e se ha funzionato allora potrebbe funzionare anche oggi, però ci sono grosse differenze. Naturalmente, non essendoci più i salotti borghesi ricchi di mobile, i mobili che si possono portare in piazza sono molto meno. Ci si organizza in qualche modo per costruire delle barricate un po' più solide, non improvvisate, ma non si riesce molto. Non ci sono più le chiese che danno la possibilità di essere saccheggiate tenendo aperte le porte, ma vengono chiuse a doppia mandata. Non ci sono più le campane ad accompagnare il tentativo insurrezionale. Ma c'è un alleato magari anche poco preso in considerazione, sono i Barabba. I Barabba, questi potremmo definirli oggi questi ragazzi che vivono di lavoretti, che hanno dei lavori saltuari, che lavorano qualche giorno alla settimana, che vivono di espedienti, di piccoli furti per arrivare alla fine del mese. Ma questi ragazzi che hanno in odio profondissimo i croati, proprio perché li hanno conosciuti nel 48, hanno continuato a conoscerli a loro spese quando gli austriaci sono tornati, e prima di arrivare al momento organizzato, al tentativo insurrezionale, ci sono moltissime azioni individuali fatte a Milano per liberarsi degli austriaci. Ci sono molte uccisioni per strada fatte di più o meno alti gradi dell'esercito austriaco. E c'è questo termine, no? Cioè si elimina un austriaco e gli si fa il passaporto per l'aldilà. Cioè lo si accompagna formalmente ad andarsene concretamente fuori dalle balle. Allora, c'è questo tentativo, non ci sono più i preti, non ci sono più i nobili, i mobili sono quelli che sono, e i mazziniani spingono, nonostante il fronte patriottico, dicono: ma secondo noi non siamo ancora pronti per questa azione, no, dovete farlo, partite, vabbè, partiamo, vada via, ciao, partiamo, cominciamo a fare sta cosa. Ipotizzano che la notte migliore per poter fare, per poter dar via a questa rivolta, sia quella di Carnevale nel 1853, la notte fra il 5 e il 6 febbraio. Ecco, noi normalmente, almeno le poche volte che abbiamo presentato questa dispensa, abbiamo sempre detto, se siete tutti di Milano, e poi è tornata alle cronache durante la campagna vaccinale, a Milano esiste una piazza che si chiama 6 febbraio, no? Però se qualcuno prima di oggi avesse potuto chiedervi: ma perché si chiama piazza 6 febbraio? Davvero pochi, secondo me, noi compresi, avremmo saputo dare una risposta a questa domanda. Il 6 febbraio è il giorno culmine di questa rivolta, è il giorno in cui si dà avvio alla rivolta ed è il giorno in cui malauguratamente questa rivolta fallisce miseramente, fallisce proprio di brutto. Il macabro calcolo, la macabra contabilità di queste giornate è questa: 900 arresti, carceri nelle fortezze, ferri pesanti e ferri leggeri nei lavori forzati, al castello 15 forche e un fucilato. La repressione fu salutata come giusta e doverosa dai giornali di Milano e dai giornali di Torino. La rivolta dei Barabba, la feccia del popolo, come la chiamavano con disprezzo, i Barabba, falegnami, tappezzieri, garzoni, facchini, fabbri, calzolai, il proletariato operaio, insomma, coloro che facevano più paura ai padroni rispetto all'Austria. E questa è proprio la conclusione, insomma, no? Se da una parte c'era la certezza che insieme agli austriaci bisognava cacciare i padroni e i loro organi di stampa avevano più paura di questa classe operaia in embrione, di questa rivolta proletaria, che non degli austriaci stessi. Dunque, qui si è fatto riferimento alle osterie. Io ho trovato una canzone, la canzone del muratore, nella raccolta della mia Morusa cara di Nanni Svampa, che parla proprio della leggera, cioè di quelli che invece di lavorare non avevano proprio voglia, ed erano quelli che racconta questa canzone. Il lunedì, l'eldi di San Crispino, mi piace bere il vino, non voglio lavorare, tirulale, lille. succederà. Il martedì, il giorno seguente, non voglio fare niente, non voglio lavorarti, rullalellillerà. Mercoledì mi casca giù il martello, giusto per quello non voglio lavorarti, rullalellillerà. Il giovedì le fiera bussolengo, vado a Remengo, non voglio lavorarti, rullalellillerà. Il venerdì è il giorno del dolore, l'è morto il Signore, non voglio lavorarti, rullalellillerà. Sabato poi è il giorno di paga, per mal che la vaga, non voglio lavorarti, rullalellillerà. Arriva la domenica, mi tiro sul cantone, aspetto il mio padrone che mi venga a ripagarti, rullalellillerà. Arriva il padrone che l'è tutto arrabbiato, ma brutto scellerato, ma levati di qua, ti rullalellillerà. Noi stiamo della leggera e poco ce ne importa, che vaga in sull'Ostia la fabbrica e il lavoro parti, rullalellillerà. Noi siamo della leggera e poco ce ne importa, vaga sull'Ostia la fabbrica il padrone. Leggera, dove vai? Io ti vengo a ritrovar. Oh, leggera, dove vai? Io ti vengo a ritrovar. Della guardia. A me tocca il 98, che è presente nella sua dispensa, però loro hanno deciso di lasciarlo da parte e quindi io sono documentato per dire, appunto, per raccontare un po' i moti del maggio del 1898 a Milano, partendo però da due testimoni dell'epoca. Uno è un ragazzino allora, che è Luigi Repossi, che poi sarà un dirigente del Partito Socialista e fondatore del Partito Comunista d'Italia e uno dei massimi dirigenti di questo partito, almeno all'inizio. E l'altro invece è Paolo Valera, giornalista, scrittore, reporter, che raccoglierà le testimonianze in diverse pubblicazioni e verrà arrestato e condannato per aver non partecipato fisicamente, ma per appunto aver raccolto questo tipo di testimonianze. E appunto Repossi, nel suo racconto, narra che i primi a muoversi furono i famosi, appunto, Barabba, già citati diverse volte oggi, cioè questo, quelli che oggi potremmo chiamare sottoproletariato, soprattutto giovani, a cui si unirono gli anarchici che polemizzarono con i socialisti. I socialisti già allora cercarono di mantenere, di riportare la calma, ritenendo che le sommosse, i combattimenti di strada, le insurrezioni chiamano alla superficie gli affamati, la plebe che vive come vive, i poveri diavoli che crescono tra un furto e l'altro. E questo è in parte vero, ma vedremo che ci sarà anche una grossa partecipazione operaia a questi moti. Questi moti che furono causati da una situazione economica disastrosa, dall'aumento dei generi di prima necessità, dal ripristino della tassa sul macinato. Già c'erano stati moti sia in Sicilia qualche anno prima, sia in Lunigiana e in altre zone d'Italia. A dare un giudizio negativo dei partecipanti a questi moti è proprio il Corriere della Sera che scrive: queste masse analfabete non hanno capito se non che tutto ciò che i padroni possiedono è tolto agli operai e che il giorno della spartizione è prossimo. Cioè il giorno della spartizione è il giorno in cui gli operai riprenderanno quello che gli è stato tolto. E qui appunto Repossi cita un episodio in cui un operaio apostrofa un industriale, un grosso industriale, Grondona, la cui fabbrica di diciamo, era una fabbrica metalmeccanica che poi attraverso vari passaggi diventerà l'OM di Milano, e gli dice: «Le venu da l'ora che noi lavorem più, tu che ravi alter sguba». Ecco, cioè la speranza che appunto ci sia questo suo movimento, che però in realtà è una cosa che nasce quasi non organizzata, cioè in parte, se vogliamo, la scintilla è l'arresto di un giovane che sta distribuendo dei volantini. Gli operai che ricevevano questi volantini e che escono dalla fabbrica ne chiedono la liberazione, ma per poter ottenere questo, anche se interviene Turati e garantisce che sarà liberato facendo pressione sulla questura, la caserma dove è detenuto questo ragazzo viene presa d'assalto con sassi, con pietre, la polizia spara, uccide un operaio della Pirelli ed è la prima vittima di questa insurrezione. Questo è il 6 di maggio. Il giorno dopo viene proclamato lo sciopero nazionale, lo sciopero generale, e cominciano gli scontri, cominciano le manifestazioni e la repressione da parte delle forze dell'ordine, tant'è vero che Bava Beccaris, che era stato nominato regio commissario con pieni poteri, comunicò che i soldati erano stati armati con cartucce a pallottola e, uscendo in servizio di pubblica sicurezza, al comando dato la truppa farà fuoco, gli ufficiali e i soldati siano preparati e ricordino che colui che non obbedisce sarà punito con il codice penale militare. E qui c'è, diciamo, da segnare un primo utilizzo diverso delle barricate, cioè non sono più barricate fatte per essere difese, anche perché non ci sono armi, cioè non è un'insurrezione armata, è un'insurrezione di gente che ha pietre, e forse qualche coltello, ma non è un'insurrezione. Quindi le barricate servono solo per impedire alla cavalleria di caricare velocemente sui manifestanti. Quindi per impedire l'evoluzione della cavalleria i dimostranti avessero barricate formate dalle vetture tranviarie. Anche questa, diciamo, è una novità. C'erano i primi tram per cui vengono utilizzati e ci sono barricate un po' in tutta la città. E queste appunto barricate venivano abbandonate appena arrivava la truppa, riprese, riabbandonate, ed era tutto un continuo occupa e lascia, proprio perché non c'era la possibilità di difenderle con armi da fuoco. La sera dell'8 si conclude appunto con una serie di scontri che sembrano diminuire, gli del 7, invece il giorno dopo ripartono ancora più violenti e la risposta è l'uso dei cannoni ad alzo zero, soprattutto a Porta Ticinese e a Porta Garibaldi. E vado veloce, vado per sommi capi per stare nei famosi minuti. La giornata del 9, la giornata successiva, culminò con il canoneggiamento del convento di Monforte, dei Cappuccini a Monforte, dove c'erano dei poveri cristi che aspettavano di avere la ciotola di pane e di minestra. Ecco, tra le testimonianze raccolte da Valera, ne cito un paio, disse: giunsi alla circonvallazione, questi sono testimoni che hanno appunto vissuto quei giorni, giunsi alla circonvallazione di Porta Vittoria quando arrivava il tram interprovinciale. Coloro che avevano pensato a una barricata fecero scappare i passeggeri e il macchinista e rovesciarono il tram facendone una barricata. Il tipo più caratteristico era un uomo tracchiato sui 30 anni, con le maniche della camicia rimboccate fino al gomito, indossava pantaloni di fustagno rotolate fino a mezza gamba. La camicia bianca come la neve gli dava l'aria di un masaniello di quei paraggi. Un tipo che gli assomigliava per audacia e per forza erculea era un facchino. I due popolani, armati della leva di legno, facevano girare i tram come un giocattolo. Sono loro che gli hanno dato il pomposo nome di barricata. Intanto la ragazzaglia entrava nel carrozzone a rompere vetri e buttare fuori i cuscini, perché furono utilizzati anche cuscini e l'arredamento dei tram per fare la barricata. Un altro testimone dice: c'era la cavalleria che si precipitava pancia a terra su tutta la gente che si sbandava da tutte le parti. La barricata aveva bisogno di essere tappata, ammucchiata con suppellettili, botti e carretti. I cuscini dei tram non erano più sufficienti. Non so chi sia stato il primo ad avvertire i perseguitati dalla cavalleria, anche qui come vengono descritti, che nei palazzi c'era la mobilia per fare 100 barricate. Intanto che i più forti rovesciavano i tram, un altro fiotto di persone è andato al portone di Carassaporiti ed è riuscito a entrare. Ho veduto buttare dalla finestra un tavolo e qualche mobile. Così la barricata, o bene o male, era in piedi. L'idea era di difenderle dal tetto come, con le tegole, un po' quello che si diceva prima, appunto era l'unica arma che usavano per potersi difendere e cercare di fermare le cariche della cavalleria. Un'ultima testimonianza è quella di due medici che entrarono nella camera mortuaria dell'ospedale maggiore e un inserviente ci fece passare. I primi cadaveri che vedemmo erano due ragazzotti che avevano tutta l'aria e l'apparenza di essere garzoni di muratori. Di due di essi avevano ancora in tasca un tozzo di pane che probabilmente dovevano mangiare a mezzogiorno. Questo ricorda appunto che sono i moti del pane, cioè la gente aveva fame e questo era il suo cibo. L'ultima notazione di Bava Beccaris, in un rapporto al primo ministro, dice: alla maggioranza di illusi e pervertiti dalle teorie repubblicane e socialiste va aggiunto il solito codazzo della gente di malaffare, degli anarchici e di tutti quelli che pescano il torbido di ogni rivolta. Che se poi per qualche disgraziata combinazione non si fosse giunti in tempo a domare la rivolta, questa avrebbe fatto sorgere una nuova comune. Sogno e speranza degli anarchici, i quali in questa circostanza è assai probabile che avrebbero avuto il sopravvento. E molti, diciamo appunto, testimoni che hanno documentato quei giorni l'hanno chiamata la settimana di sangue di Milano, rifacendosi alla famosa settimana di sangue della Comune di Parigi. Ricordo solo infine il bilancio, perché dimostra la disparità di forze di quello che è successo, perché se il bilancio ufficiale parla di 80 morti e 450 feriti, le stime reali parlano di alcune centinaia di civili uccisi e un migliaio di feriti, a fronte, e questo lo scrive il comando militare, di un soldato morto e 22 feriti. Tra i rivoltosi vi furono bambini uccisi di tutte le età, ammazzati solo per aver fischiato i soldati o a causa dei colpi di cannone, e anziani freddati alle finestre sulla porta di casa. Il Tribunale di guerra distribuì 1.435 anni di galera a 828 imputati, di cui 688 condannati, un terzo dei quali minorenni. Ecco, questo qui è un po' velocemente la storia della barricata, che però sulla dispensa è raccontata molto meglio, in maniera molto più dettagliata. Io ho abbassato l'abbassamento. E vi ringrazio. La canzone che propongo adesso si chiama proprio Inno del Sangue ed è riferito proprio alla sanguinosa repressione dei tumulti del pane che ha appena descritto Claudio. Il testo l'ho ritrovato leggermente diverso, più circostanziato sulla città di Milano, nel libro di Cesare Bermani, Vieni Omaggio, l'Inno del Sangue. Alle grida strazianti e dolenti di una folla che pando mandava, il feroce monarchico Bava gli affamati col piombo sfamò. Furon mille i caduti innocenti sotto il fuoco degli armati caini, al furor dei soldati assassini, morte ai vili la plebe gridò. Su piangete mestissime madri, quando scura discende la sera, per i figli gettati in galera, per gli uccisi dal piombo fatal. La panciuta caterva dei ladri, dopo avervi ogni bene usurpato, la lor sete ha di sangue saziato, in quel giorno nefasto e feral. Tu che un dì nella grande sventura fosti intenta a innalzar barricate, tu che in cinque gloriose giornate disperdesti l'odiato invasor, tu Milano che a piedi tue mura trucidati i tuoi figli hai veduto, su risorgi il momento è venuto, guerra guerra agli infami oppressor. Non rider Sabauda Marmaglia se il fucile ha domato i ribelli, se i fratelli hanno ucciso i fratelli, sul tuo capo il loro sangue cadrà. Ridi pur, ma la santa canaglia questa plebe sfruttata e schernita, se si desta qual belva ferita, sui potenti avventarsi saprà. Se si desta qual belva ferita, sui potenti avventarsi saprà. Solo un punto, allora stiamo andando belli, belli sparati, se resistete fino alle 8 quando poi ci mettiamo a tavola dovremmo fare a tempo a fare il biennio rosso e elogi. Quindi ecco, sul biennio rosso date per inteso che parliamo anche delle barricate di Parma, in realtà non c'è un contributo specifico al riguardo, le barricate dell'agosto del 22 in occasione dello sciopero cosiddetto legalitario. C'è però un libro sul banchetto che ha portato Paolaccio e quindi lì ci trovate tutte le informazioni storiche, le riflessioni e i contributi più significativi. Ecco, con il biennio rosso assistiamo a un passaggio significativo che adesso... E poi dopo, sì, esatto, poi dopo nel presente c'è le trasformazioni del far barricate oggi, le barricate, insomma, gli scontri ai campi nomadi del 2000 e alcune considerazioni finali. Io l'ho detto, non facciamole in giugno queste cose. Porca puttana. Allora, il biennio rosso, raccontare il biennio rosso è incredibile. Siccome noi le barricate le abbiamo fatte su Milano, è chiaro che abbiamo concentrato le nostre riflessioni sulle occupazioni del 20 a Milano, che sono state già 300 occupazioni dei metalmeccanici. Però volevo partire da prima. A Torino, a marzo, il governo mette l'ora legale. L'ora legale l'avevano già messa anche prima per risparmio energetico rispetto alla grande guerra, però gli operai della FIA non sono d'accordo, non gli piace alzare al mattino buio di qua, vanno dall'azienda e gli dicono di mantenere l'ora solare. L'azienda non ci sta, tre operai vanno e spostano l'orario. Questo è un peccato capitale, il dito operaio nell'orologio del padrone, e questa è una cosa che non si fa. Praticamente vengono licenziati e scatta lo sciopero. Però la riflessione è questa, che tra l'ora solare e l'ora legale è come se fossimo ancora alla prima guerra mondiale. Nella prima guerra mondiale abbiamo una trincea e un'altra trincea, nel mezzo la terra di nessuno. Qui abbiamo un'ora solare e un'ora legale, nel mezzo si gioca la partita dell'ora di nessuno, perché quando parte lo sciopero l'ora si frantuma, perché siamo alla riconversione industriale, arrivano nuovi macchinari, c'è il taylorismo, per cui ci sono tutti i presupposti per cambiare i tempi del cottimo. E già lì entra la problematica operaia che dice che non va bene, per cui ci sono lotte, divisioni già da prima, per cui lo sciopero si ingigantisce, perché poi è tutta una questione sui tempi vuoti da ricalcolare, così. E in più i torinesi pongono un problema sul sabato pomeriggio. Il sabato è una giornata lavorativa piena e qui siamo già ancora nel tempo liberato, per cui in questa ora di nessuno si gioca una partita molto grossa. Lo sciopero si allarga a tutta Torino. Torino viene blindata militarmente, per cui cosa fanno? Alzano il tiro e fanno lo sciopero regionale. 500.000 operai, lavoratori, vanno in sciopero. A questo punto c'è il problema di allargare lo sciopero e di avere una sponda politica. Il sindacato non è d'accordo, perché nel frattempo, nell'ora di nessuna, nascono i consigli di fabbrica, che rispetto alle precedenti situazioni è più libera, più autonoma, possono votare tutti, e questo non è che indispettisce, non è nella tradizione socialista e sindacale che il cui il controllo è la disciplina. Hanno paura che si infiltrano gli anarchici e la parte comunista di Torino, per cui sono già contro il consiglio di fabbrica. I socialisti, inteso come partito, che l'anno prima la direzione è stata conquistata dai massimalisti, che hanno praticamente preso il posto dei riformisti. Qui una parentesi. Allora, i riformisti sono gli unici che hanno le idee chiare. La rivoluzione non la vogliono, non la vogliono. Per cui sono gradualisti. I massimalisti, adesso non lo voglio buttare in cacciara, però tipo interisti, sono questi che sulla rivoluzione ne sparano grosse, che però, ma è anche nella loro natura, perché sono dei riformisti eccitati, diciamo, perché pensano che il padrone morrà da solo, di morte naturale, non hanno il concetto di rivoluzione, seppur gasati, come tutto il Partito Socialista, di quello che è successo in Russia. In ogni caso, dopo lo sciopero regionale non gli si dà sponda politica, né si allarga lo sciopero, si fa un accordo fra socialisti e la CGIL e gli industriali, in cui praticamente si mortifica sia il movimento e sia la questione delle ore. A giugno c'è il congresso della FIOM, che presentano il contratto. Due mesi di discussione, in agosto gli industriali rompono, rifiutano di fare il contratto, i soldi non ci sono e tutte le solite discussioni. A questo punto si sposta tutto a Milano, c'è il congresso straordinario della FIOM e si sposta a Milano parte della CGIL e parte del Partito Socialista. Fanno, praticamente elaborano una cosa che è originale. Dicono: mettiamo in atto l'ostruzionismo. Se poi le aziende, gli industriali fanno la serrata, si occupano le fabbriche. L'ostruzionismo cos'è? Praticamente è entrare ancora nell'orologio del padrone, nel senso che tutto diventa più lento. Si sta sul posto di lavoro, la manutenzione deve essere fatta a macchina ferma, non si fanno lavori che non sono di competenza, e il cottimo niente, si va sulla paga base. È un qualcosa che è difficile che entra, che gli operai interiorizzano, ma alla fine, quando ci riescono, praticamente nell'orologio di fabbrica ci sono i minuti e i secondi che corrono disperatamente, dirigenti e capi reparti, l'ora è lenta, interiorizzano un ritmo, adesso per dire che sono dei bradipi salariati è troppo, però interiorizzano un movimento e un fare rallentato. Questo fa parte anche dopo certe giornate, che praticamente anche quando vanno a casa sono lenti, anche in casa parlano adagio, anche i bambini li menano poco, anche nelle osterie c'è tutto un tempo diverso da quello del padrone. L'ostruzionismo è un veleno lento, nel senso che gli industriali pensano di gestirle, ma la produzione cala. Il 30 agosto alla Romeo, che dopo diventerà Alfa Romeo, alla Romeo saltano i nervi, chiudono la fabbrica. A questo punto parte la staffessa, va alla Camera del Lavoro e la Camera del Lavoro dice manda le staffette dicendo non si esce. Alla sera, a questo punto, suona la sirena, i metalmeccanici fanno la finta, il padrone è fuori, chiudono i cancelli e licenziano il padrone ed entrano un altro tempo, il tempo dell'occupazione. A Milano non ci sono i consigli di fabbrica perché il controllo dei riformisti è molto stretto, però cominciano a gestirsi in modo diverso, cominciano ad esserci le cucine comuniste, nascono la gestione operaia, per cui sono dentro che vivono un tempo che non ha mai vissuto e sono anche contenti di essere senza padrone e farsi padrone se stessi. Questo va avanti per un po'. A questo punto la CGIL convoca riunione proprio generale in cui c'è PSI, CGIL, FIOM. Praticamente cosa fanno? Cominciano a discutere, ma in modo un po' strano, perché anche gli operai hanno sentore di essere quelli che si sono barricati dentro e rischiano di essere chiusi fuori, chiusi dentro. Passano da essere occupanti a operai di clausura, hanno questa paura, sanno che si sta giocando questa partita pesante. Difatti si fa durante le discussioni, la prima cosa che mettono in ballo dicono i torinesi, ordine nuovo, partite voi, poi dopo noi veniamo. Il torinese dice vabbè dai, allora nel 15 lasciati soli, nel 17 lasciati soli, nel 20 l'abbiamo appena finito, lasciati soli, vai avanti te che mi viene da ridere, noi possiamo andare ma se tu ampli lo spazio lo mettiamo su tutta Italia e facciamo quello che dobbiamo fare, perché una volta tra le questioni del tempo c'era l'ora grande veniva detto l'ora della rivoluzione, che del 19 viene rimandato di sciopero in generale in sciopero generale. Ora i metalmeccanici pongono il problema dell'ora giusta, nel senso che la rivoluzione la facciamo quando è il momento, anche perché la solidarietà comincia a espandersi, anche altre fabbriche che non sono metalmeccaniche vengono occupati, la Erba, la Campani, la Hutchison, la Pirelli, per cui c'è questo movimento grosso. Il sindacato ha paura che da vertenza sindacale diventi una questione politica. A questo punto il partito dice vabbè, prendo in mano io la situazione, per cui c'è questa staffetta, perché poi nelle fabbriche inizialmente non giravano armi, poi cominciano ad arrivare le armi, per cui sono abbastanza armati. Ci sono le guardie rosse che controllano sia le vedette rosse sia i ciclisti rossi, e i ciclisti fanno la sponda tra il convegno e le fabbriche, per cui portano la notizia che il partito vuol prendere in mano la situazione, si allarga a tutta Italia, per cui i metalmeccanici fanno un passo avanti fuori dalle barricate, fuori dal cancello. Non passano che 4 ore, torna indietro l'altra ciclista e dice guardate che il sindacato ha detto che se il partito prende in mano la situazione loro si dimettono, perché deve rimanere una questione sindacale, per cui i metalmeccanici rientrano. Ritorna il giorno dopo il ciclista rosso dicendo guardate che la FIOM sta facendo una mediazione, per cui dice sì, estendiamo a tutta Italia, però non in senso rivoluzionario ma di appoggio ad alcune piattaforme che il governo deve accettare. Per cui, e poi si arriva a quella che sarà l'11 settembre, rimane il nostro 11 settembre dopo quello cilene più ricordato, lasciamo perdere le torri. L'11 settembre c'è il convegno, che è una cosa incredibile, cioè praticamente si mette la rivoluzione ai voti in un convegno pubblico in cui ci sono due mozioni, quella del sindacato che non vuole, che vuole rimanere in un ambito sindacale divertenza, e quella del partito che non vuole vincere, vuole perdere perché non è attrezzato, non ha proprio idea di dove sta. Per cui, e poi tra gli invitati c'è anche Breton, che praticamente da lì parte per capire cos'è il surrealismo, cominciare a combinare la sua teoria, perché proprio siamo a livello surrealista, perché mettere pubblicamente a votazione la rivoluzione è qualcosa. Comunque la rivoluzione vincono i sindacati con 591 voti contro i 403, la Fion si astiene sui 93, e praticamente si va a chiudere sindacalmente la faccenda. Quando gli operai escono dalle fabbriche, perché poi gli pagano anche i giorni dell'occupazione, sindacalmente qualcosa portano a casa, miglioramenti economici, ma quando escono sentono quest'aria di sconfitta, ma non capiscono chi li ha sconfitti e quando, perché sono ritornati ancora alla storia delle lancette. Qui dovrebbe finire la sintesi, e spero stato veloce, delle 300 occupazioni e delle 300 barricate, ma c'è un po' scritto. Allora, c'è la delegazione italiana che va a Mosca a parlare con Lenin, per cui c'è una pausa, Lenin offre le angurie, e c'è Costantino, che dovrebbe essere Lazzari, che chiede a Lenin cosa... In caso di occupazione, ma cosa ne facciamo degli industriali? Chiaramente Lenin e Sornione sputacchiando che qualche semino dice liquidateli. E Lazzari rispose, e Costantino rispose, ma sur Lenin, non ti minasse un bravo genio. Però Antonio Gramsci Antonio dice agli operai di Milano che è un problema Milano. E qui chiudo. Allora, anche questa canzone è stata composta negli anni 20 dal livornese libertario anarchico Ezio Taddei, è uno scrittore, compositore autodidatta, amico di Arthur Miller, di Carlo Tresca, che ha girato tutti i confini d'Italia. E, all'isola di Ponza negli anni 20 si cantava questo inno: e verrà il dì che innalzeremo le barricate. Prona la fronte sotto il peso del lavoro, piegato il cor dallo scudiscio del potente, purché la gioia dia chi vive nell'oro, senza di man lavorator morente, sia nel dolore di una schiavitù tiranna, unite insieme da sacramental promessa, sulla terra del duol, tutti pronti a morir, alla luce del sol, in questa notte di tenebre secolari, il nero drappo sventola sul carro di fuoco, e redentrice una marcia siamo proletari, l'anarchica gloria alla nuova umanità. E verrà il dì che innalzerà le barricate, e tu borghese salirai la ghigliottina, per quanto fosti sordo alle stremate grida di chi moria nell'officina, per i nostri figli fino all'ultimo momento contro tedile borghesia combatteremo, suda forti pugnam per la lotta final, l'anarchia salutiam in questa notte di tenebre secolari, il nero drappo sventola su un carro di fuoco e redentrice una marcia siamo proletari, l'anarchica gloria alla nuova umanità, l'anarchica gloria alla nuova umanità. Adesso non so cosa ci sta. Allora, adesso con un salto spericolato ci portiamo sui primissimi anni 70 con Cucciolo che ci racconta un certo modo di fare barricate, perché far barricate non è soltanto, come è stato detto, tirare su uno sbarramento fisico di mobili, carri, eccetera, ma un modo di stare nella strada innanzitutto. Vieni. Allora, un po' ricostruire un po' la storia delle barricate a Milano, è tutto un discorso abbastanza in salita, perché non c'è una continuità rispetto, per esempio, il Maggio francese, le barricate del quartiere latino, eccetera, eccetera. Allora, a Milano, che è proprio tipicamente di Milano, si può definire che la prima barricata degli anni 70 nasce col movimento studentesco, che improvvisamente costruisce quello che poi viene chiamato il servizio d'ordine, che è costituito da un gruppo di persone che variano tra le 400 e 700 persone, che si può definire una barricata umana, perché sono 400-700 persone cordonate con caschi e bastoni che si frappongono fra la polizia e come si dice, i manifestanti, ed effettivamente è un blocco insuperabile. Questa è una modalità tipicamente milanese e costruita dal movimento studentesco, che poi continua negli anni. Però infatti la novità si può chiamarla una barricata umana, perché è un blocco insuperabile che si chiama servizio d'ordine. Poi, saltando da questo, secondo me, da questa modalità, saltiamo all'occupazione delle case di McMahon, che anche sul libro si vede la foto di questa barricata in difesa di questa occupazione delle case, che è una delle prime occupazioni di case avvenute a Milano. Allora, si era costruita questa barricata, è una, come si dice, un'occupazione che dura un giorno, perché la polizia interviene rapidamente, e i compagni avevano costruito questa barricata in attesa che arrivavano i giornalisti per spiegare un attimo l'occupazione, ma poi improvvisamente è arrivata la polizia. E lì c'è un po' il fallimento, che la tecnica era che dovevano, come si dice, quando la polizia arrivava, la barricata era stata messa della benzina che doveva essere accesa quando appunto partiva la prima carica. Il problema è che la benzina era evaporata, quindi i poliziotti sono arrivati, quindi c'è stato il fuggi-fuggi generale, una parte è riuscita a scappare per le campagne e via dicendo, e 25 persone, che tra l'altro erano quelli che più avevano organizzato l'occupazione, e sono stati presi dentro la casa occupata. Insomma, è stata abbastanza, questa barricata abbastanza un insuccesso. Saltando sempre nello stesso anno, invece nell'occupazione delle case di via Tibaldi, quindi siamo nel 71, la polizia sgombera le case di via Tibaldi, gli occupanti vengono portati all'università di architettura e la sera si organizza la classica difesa dell'università, quindi incatenando i cancelli, e sui sottotetti per la prima volta a Milano si introducono una difesa con le bottiglie Molotov. Infatti quando la polizia carica l'università, lo scontro, per la prima volta vengono gettate le bottiglie Molotov sul primo impatto. Poi dai sotterranei si esce e diventa guerriglia urbana per 3-4 ore nei dintorni dell'università, costruendo nelle strade, mettendo di traverso le macchine, facendo barricate tradizionali, come si dice, tradizionali. E saltando invece di anno, il 12 dicembre del 72, la polizia aveva cambiato la sua tecnica di combattimento, erano diventati più veloci, caricavano coi blindati e se erano, come si dice, in difficoltà sparavano. Il 12 dicembre del 72, secondo me, è la più grande vittoria militare del movimento, perché organizzano 3 cortei clandestini, specialmente questo qui di Coldilana. Si manifesta per uno scontro e con barricate continuo, dove l'utilizzo, diciamo, della difesa e della, come si dice, divisione tra i compagni e la polizia e l'uso massiccio di bottiglie Molotov. Vado velocissimo, sembra un po' schizofrenico, ma raccontare, se no ci si perde. Saltiamo al 75, che è la manifestazione della morte di Varalli. Lì, secondo me, c'è un po' di tutto in quella giornata. Quindi vado veloce. C'è il concentramento lì in piazza Cavour. I compagni vogliono uscire dalla piazza per andare a saltare la sede di via Mancini e si trovano di fronte alla prima barricata contro, organizzata dai compagni del movimento studentesco, che non volevano fare uscire appunto chi voleva andare in via Mancini, che anche quella è ermetica, ma riescono a passare perché i CAFI, i comitati antifascisti, che erano una frazione dell'MS, lasciano passare il corteo. Quindi la barricata umana dell'MS in questo caso è contro i compagni, quindi il primo tipo di barricata superata. Il secondo, vabbè, si arriva in via Mancini e paradossalmente le barricate sono fatte dai, come si dice, dalla polizia e dai carabinieri, che mettono i blindati di traverso, quindi si capovolge il discorso delle barricate. Quindi la polizia che fa le barricate, un paradosso. Terzo, di quella giornata lì, qui c'ho anche le foto che si riesce a capire per poi spiegare un attimo perché le bottiglie Molotov erano una barricata fondamentale, è che quando i manifestanti finiscono, il grosso del corteo finisce di attaccare via Mancini, arrivano i comitati antifascisti, quindi 10 minuti, un quarto d'ora dopo, che hanno, numericamente sono pochi perché il servizio d'ordine dei comitati antifascisti più o meno è una 50 di persone, bravi ma pochi, però con la modalità di difesa del movimento studentesco, quindi della barricata umana, vengono caricati violentemente, qui si vede le foto, dalla polizia, quindi non sono in grado, tirano alcuni sassi, qui muore Zibecchi, ma potevano morire molti di più, come si vede, perché non riescono a fare un'interposizione tra le camionette che arrivano e loro, perché loro non utilizzavano le bottiglie Molotov, quindi non riescono a creare una barricata. Qui, per esempio, c'ho una foto di una come si dice, di una squadra per spiegare come poteva essere la difesa di compagni che, come vedete, sono tutti a volto quasi scoperto, sono 13, tutti hanno una bottiglia Molotov in mano, quindi sono due a testa. Questi sono in grado di creare una barricata in qualsiasi momento. Poi volevo dire rapidamente, tanto per me si passa proprio, come si dice, da una situazione all'altra. Nelle università tutti i giorni c'erano, come si dice, scaramucce, via dicendo. Qui siamo già negli anni 75-76, ma per dire l'entrata come forma di utilizzo della barricata, che erano di fatto le bottiglie Molotov. Per esempio il servizio d'ordine di architettura che era e con Casoretto, che era un misto fra, come struttura, fra MS e l'altro tipo di difesa, quindi che avevano anche le bottiglie Molotov, con la polizia si fronteggiavano, scappavano, improvvisamente si giravano di colpo, tiravano 50 bottiglie Molotov e facevano una barricata fra loro e la polizia, no? Queste erano abbastanza modalità che erano ormai entrate nelle, come si dice, nelle robe correnti. E infatti anche nelle manifestazioni più, come si dice, quelle che si pensavano più tranquille, via dicendo, i compagni avevano sempre, come si dice, le bottiglie Molotov, perché se succedeva qualcosa, come si vede per esempio in queste fotografie, non avevi la possibilità di costruire una barricata con macchine o con altri oggetti. Quindi il primo filtro era di difesa e di interposizione, era la bottiglia Molotov. Stessa cosa poi, ma qui si ritorna negli anni 70, nelle piccole, Milano aveva una composizione operaia di piccole e medie fabbriche, dove i picchetti ricordano molto quelli della logistica di oggi, quindi erano nello sciopero o nell'occupazione di queste fabbriche. E, diciamo, gli scioperanti o gli occupanti erano sempre una minoranza, dove erano poi sostenuti dai compagni, e si costruivano le barricate di difesa perché non tanto contro la polizia ma contro i crumieri, che erano molto forti, molto aggressivi, e molte di queste piccole fabbriche dove i padroni magari erano delle MSI, via dicendo, quindi a volte venivano anche le squadracce fasciste a dar mano ai crumieri. Poi ultima cosa, ma proprio saltando da un estremo all'altro, dove, come si dice, questa interposizione delle Molotov sono state, diciamo, una cosa abbastanza fondamentale, anche nel 73, quando parte la campagna a Milano contro i fascisti, fascisti fuori legge, i fascisti non hanno diritto di parola. Il livello dello scontro dei fascisti è già alto, nel senso hanno già in dotazione le armi da fuoco e sparano, via dicendo. I compagni, il movimento in generale, decide di non alzare il livello di scontro, quindi di rispondere alle armi con le armi, ma si dota sempre, come una roba di interposizione, sempre con l'uso della bottiglia Molotov, diventa sempre una barricata anche contro, come si dice, contro i fascisti. E poi da un punto di vista di urbanistica, visto che siamo qui al Conchetta, quello che si può sostenere è che un'altra barricata, diciamo, a Milano già fatta, erano i Navigli all'epoca, come oggi, no? Che è un'interposizione naturale rispetto alle forze dell'ordine. Sono stato un po' schematico, vi saluto. Si è fatto riferimento all'occupazione di Via Tibaldi nel giugno del 71, e Franco Trincale, il grande cantastorie milanese, siciliano di origine ma milanese di fatto, ha documentato questo fatto importante per Milano, quando appunto c'era un movimento per il diritto alla casa. E questa lotta è descritta proprio da questa canzone, La ballata di Via Tibaldi. Oh compagno, lo sai che oggi in Via Tibaldi la polizia Madri e bimbi ha cacciato via dalle case popolari, quelle case che il comune costruisce ma non dà alla gente proletaria che quelle case ha fabbricato. Ed ho visto ammazzare dagli ipocriti borghesi un bambino di 7 mesi perché figlio della povertà. E ho visto quelle madri chiuse dentro al cellulare l'elemosina rifiutare per la lotta continua. E ho visto gli operai, l'avanguardia rivoluzionaria, alle mamme proletarie portar la solidarietà. Con dei fatti e non parole, e quel sangue sul selciato, le menzogne del padronato cancellare non potrà. O compagno operaio, muratore immigrato, questa lotta è la tua per abbattere lo Stato. È lo Stato dei padroni che è fondato sulla violenza, ma la violenza rivoluzionaria, quella giusta, trionferà. Perché il fine è di abolire ogni altra violenza come quella della polizia al servizio della borghesia. Su avanti o proletari, oggi la casa, poi la città. Con la lotta unitaria conquistiamo la libertà. Con la lotta unitaria conquistiamo la libertà. Allora, siamo arrivati alla fine. Sembra banale dirlo, ma purtroppo anche oggi chi la paga sono gli zingari. Dovremmo essere sintetici, molto sintetici, ed è un peccato. Siamo nel 2010, a Milano, in via Triboniano, zona nord-ovest, vicino a Musocco, esiste questo campo nomadi, chiamiamolo così, Rom. Il campo più grande di Milano. Dentro la chiesa ci lavora parecchio, ha messo in piedi dei progetti, ha messo in piedi dei percorsi di integrazione, però c'è un problema gigantesco, un insieme di problemi giganteschi. Qui proprio la spiga si accanisce. 2010, pochi anni prima viene assegnato Expo a Milano, e via Triboniano viene individuata come una delle possibili direttrici per arrivare nel luogo dove verrà poi costruito, dove sorgerà il sito di Expo. Per cui cancellare quel campo è d'obbligo. Quegli anni il governo è in mano a Berlusconi, ministro degli interni è Maroni, vice sindaco a Milano è Decorato. Inizia la campagna elettorale perché a Milano ci saranno le elezioni e qui, come l'abbiamo definita noi, trovano la gallina dei voti d'oro. Per cui dimostrare che Milano deve diventare, se non continuare ad essere, una città sicura, eliminare un ingombro come quello che alcuni cittadini della zona identificano in quel campo, cioè togliere quei rompicoglioni di zingari ai cittadini che li vivono. Expo, elezioni, nomadi. Una congiuntura perfetta. Insieme alla Chiesa cominciano a lavorare anche dei compagni dentro questo campo. Elaborano una serie di proposte e si propongono di portarle direttamente in comune. Nel massimo della legalità organizzano un corteo per arrivare in centro a Milano e lo fanno utilizzando i mezzi pubblici. Ogni persona del campo che parteciperà a questa delegazione è dotata del proprio biglietto per utilizzare il mezzo. Più legalitario di così non si può, ma poco importa, comunque rimani uno zingaro, comunque rimani un rompicoglioni, comunque rimani un ostacolo e addirittura vuoi andare in comune a portare delle proposte, ma non se ne parla nemmeno. Questi arrivano verso Piazza della Scala e lì li attende, ma non riescono nemmeno ad arrivare lì, sono attesi da uno schieramento di sbirri incredibile, prendono un sacco di manganellate equamente divise fra tutte le divise che sono presenti quel giorno. Ci sono i carabinieri, ci sono i poliziotti, ci sono i vigili urbani e legnano, li massacrano, proprio botte della Madonna. Ma anche questo inaspettatamente cosa succede? La feccia, i più sacrificabili, i più miserabili non si limitano ad accettare le botte, si organizzano e da popolo nomade non possono che mettere in pratica una barricata nomade, per cui tutti i carrelli della spesa che avevano a disposizione vengono utilizzati per cercare di fermare le cariche contro di loro e riallacciandomi al discorso che è stato detto fino adesso, che è stato fatto poco fa, utilizzano delle bombole del gas per costruire questa barriera. I giornali enfatizzeranno tantissimo su questa cosa, tre bombole grandi, due piccole, viene indicato anche il colore di queste bombole, ma è vero che le avevano posizionate aperte oppure non è vero, comunque sia queste bombole ci sono. Viene dato fuoco a un'auto e viene posizionato un furgone come strumento per impedire o per rallentare o per ridurre al minimo l'impatto con le forze dell'ordine, chiamiamole così. Comunque botte della Madonna, equamente divise tra le diverse divise, naturalmente non se ne parla nemmeno di arrivare a un accordo o ad accettare le loro proposte, il campo viene sgomberato e a noi è tornata alla mente una più antica profezia che era stata scritta sulle strade di Milano da CT. Oggi gli zingari sono poveri, domani tutti i poveri saranno zingari. E oltre a quasi 15 anni da quei fatti, mi sa che ci siamo per la sua attualizzazione. Beh, noi abbiamo finito il nostro racconto, adesso ci vedremo più tardi per ricordare Paolo Ciarchi. Grazie. Io per concludere ho scelto un inno tra i più famosi delle barricate spagnole, Las Barricadas, scritta da Fernández Orobón nel 1936, fa riferimento alla fine al grande sindacato anarchico più importante in Spagna che diede filo da torcere a Francisco Franco e alla Falange. Las Barricadas, a Las Barricadas. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos manda el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y con valor. Alta la bandera revolucionaria que del triunfo sin cesar nos llevan pos. alta la bandiera rivoluzionaria che del trionfo sin Cesar noi lleva in po. En pie pueblo obrero a la battaglia hay que derrocar a la reacción, a las barricadas, por el triunfo de la confederación, a las barricadas, por el triunfo de la confederación. Grazie mille. Potrete trovare tutte queste canzoni, più una che non ho fatto per motivi di tempo, nel famoso canzoniere delle barricate che troverete sul sito del COX.